fuori non va più. Bisogna mettere un microfono a tavolo. Guarda, sta dicendo Roberto. Aspettate un attimo, cazzo, state parlando sopra, vabbè Roberto. Ha fatto più di lui, scusa il discorso, vabbè, ti volevo chiedere, il cavo della stella, l'hai cambiato o è rimasto quello che c'era? No, ha toccato il cavo. Ma mi hai chiesto che l'alimentatore stavo usando, così è. Sì, a quello lì hai fatto, mi sono sacrificato, ho cambiato il discorso, mi sono inventato le cazzo questo apparato. Una KP12, 12 ampere mi baro, 15 ampere, boh. Sì, anche gli strumenti? No, negativo. Ha aumentato il segnale a 8, 8, 8. Sto portando con un negro. Prendi il telefono. Che di nove. Carino, è finito di rompermi i coglioni, però beh. Vai, è pieno di carabinieri. Più meglio non si dice, ma io dico più meglio. Aspetta un attimo, ma tu prova se ti sento più forte la camera, ecco, dai, fatta assillo un po', vuoi su, su. Esci un po', però lo innesca. Poca roba, però. Se c'è un fischio sotto. Tranquillamente, No, avvicini troppo, cioè è amplificato il microfono, no, amplificato. Si sente tutto. Sì, ma non faccio del vero, capito? Ma il microfono amplificato il cavo. Il tavolo? Sì, io. Andava, era. Ogni tanto, mamma mia, non è possibile, è tanto cazzo. Non so portare il comando, se mi zisci, ma io sono sdraiato, ma sparita, me lo vedo, affannato, l'altra volta è uscito di, stavo solo di testa, c'è stato il comando, e non riuscivo a trovarlo, e avevo messo, aspetta, mi sono messo la busta alla mondetta. Ma vabbè, esatto, ieri l'ho visto che c'era la notizia, però sul tardi, verso l'una e mezza di notte, quindi stavo guardando se c'era la notizia, e c'era praticamente in un programma dicevano che la natura era afrodisiaca e che faceva bene alla salute, specialmente alla salute delle coppie, nel mentre si fa l'amore dice che fa bene eccetera eccetera. In un altro programma contemporaneamente dicevano che la natura era contraria agli effetti amorosi. Vabbè, io già avevo bisogno della natura, non so là. Aspetta, allora c'è cosa hanno detto? Dice, parlando di verdura non abbiamo capito un caso. Vabbè. Ciao signore, io vi saluto e vado a pranzare. Buon pranzo a tutti. Ciao, Roma, già lo so che tu non hai bisogno della tua, per il Viagra. Vabbè, per un futuro però lo Viagra. Sopra Antonio ti sente. Poi guarda che c'è Antonio che ti chiama. ti sta chiamando. Meglio. invece di regolarlo, vorrebbe regolarlo più lento, così tanto regolamelo più lento, scusa. Thank you. vediamo un po', chi c'era in ascolto, chi c'è, che abbiamo preso noi il comando del 10, avanti, chi parla? No, questa non è per me nessuno. Babu, io adesso un attimino mi rilasso così, 10 minuti. Anche perché tu vuoi sia prima oggi, dunque, bisogna che ne approfittare. Ci sentiamo. No, non c'è nessuno per questo, credo perlomeno. Alle prossime, ciao Manu. Già c'è la doppio room, ma si vede che sei anche isolato. Doppio room, ci sei? Niente, tutti con la forchetta in mano sono. Ciao, allora. Mi raccomando, i piedi ben in alto, mi. Così il sangue non ti scende alla testa. Ci sentiamo, ciao, ciao. Ok, ciao.